già pensato Van der Waals. Siamo cose tra le cose, cerchiamo il senso al di fuori di noi, ma siamo noi che siamo un'altra unità. Cadono le mie teorie, anomalie virtuose, contribuismo al cosmo come cosa tra le cose. Tutto sarà più chiaro che una volta deceduto. Chi per me o come cosa non ho mai capito, aspetta, ero. Dicono che dopo l'urto una volta alzati, forze sovrumane ti hanno le chiavi di accesso. Potrei aprire porte che non ho mai voluto, che non ho visto mai, ma capirà, aspetterò. Il tempo passa, la mia condizione no, resta la stessa mentre osservo l'aumentare dello stress. Prende forma l'idiozia che erige il mio pensiero. A qualcosa gioverò oltre al delirio. Venderò il mio seme, $8 al barile. Artefici di una crisi economica mondiale. E sputo bombe sui miei figli dalle fauci sanguinanti. Il vero Fred arriverà, il vero Fred arriverà. E sarà tardi, rincorro un giorno che è tardi a venire. Cosa tra le cose non continuo a disperare. Mi fa male, mi fa molto male. Ma è lucida da me pensare al male, lucida da me. Dicono Big e Big peccato, solo per capire l'abisso. Dicono Big e Big peccato, solo per capire l'abisso. Dicono Big e Big peccato, solo per capire l'abisso. Dicono Big e Big peccato, solo per capire l'abisso. Dicono Big e Big peccato, solo per capire l'abisso. Dicono Big e Big peccato, solo per capire l'abisso. Dicono Big e Big peccato, solo per capire l'abisso. Dicono Big e Big peccato. Cerco il mio spazio ideale, uguale al reale, senza il mio dolore. Cerco il mio spazio ideale, uguale al reale, senza il mio torpore. E niente che preoccupa, ritorna su di me. Un pesante soffocare prima ogni mio creare. Chiudo gli occhi ma continuo a respirare. Chiudo gli occhi ma il resto tarda a venire. Tu dammi nuove cose, altre parole per spiegare. Oltre c'ho il malessere, presenza, presunti presentimenti. Nuova crisi dei fondamenti, coscienza, affetto, fanghi e lamenti. Prendo pace nel grembo del buio, scivolo rovinosamente tra i liquami del mio giorno. Fiumi di me straripano in timore e dubbi. Quante altre volte starò un aspettare, un mi assolvermi. Quante altre volte starò, quante altre volte starò, quante altre volte starò, quante altre volte starò, quante altre volte starò, quante altre volte starò, quante altre volte starò, quante altre volte starò. A quante domande rispondo con altre domande, e quante altre volte accelero le verità dalle mie risposte. Dimmi quante volte credo tutte, credo tutte le altre volte. Quante altre volte starò, quante altre volte starò, quante altre volte starò, quante altre volte starò, quante altre volte starò, quante altre volte starò.